si yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi inizia il conto alla rovescia, l'ultima settimana di Melog. Preparatevi a vivere serenamente la vostra estate. Siete mai stati accusati di egoismo o anche di narcisismo, che è la forma moderna per definire un egoista? Beh, chi vi accusa di questo sommessamente vuole ricordarvi che esiste qualcun altro al mondo oltre a voi. Quindi vi si accusa di non avere altruismo, di non riconoscere gli altri, di non accorgersi ci sono altre persone attorno a voi. Beh, questa mattina vorrei, in maniera del tutto disincantata, senza nessun problema, senza pudori, senza reticenze, non ho esperti, non ho psicanalisti, non ho preti, non ho moralisti, non ho filosofi, non ho nessuno. Ho semplicemente l'apporto e l'appoggio delle vostre testimonianze e delle vostre sincere confessioni. Quanto è bello essere altruisti? Beh, pensiamo un attimo, non è che siamo animali, che siamo bestie. Certo, ci accorgiamo che esiste qualcun altro attorno a noi. Ci accorgiamo in prima linea delle persone a cui vogliamo bene, con cui abbiamo relazioni, con cui abbiamo rapporti. Quindi la nostra prima forma di altruismo, cioè di uscire dalla strettissima cerchia che circoscrive la nostra esistenza, è rivolta alle persone alle quali siamo legati da un rapporto affettivo, mogli, mariti, figli, soprattutto. Come si fa a non essere altruista verso un figlio? Beh, comincia a essere difficile quando il figlio cresce, devo dire. Non posso fare torto o chiedere giustizia a chi non è stato altruista con me da una certa età in poi. Quando noi ci affermiamo come identità a noi e separati dal mondo, è un po' difficile, si allenta questo filo di altruismo biologico. Ma esiste l'altruismo biologico? La legge genetica che ci lega ad altre persone, cioè il codice genetico comune con altre persone, corrisponde a un'altrettanta necessità di altruismo, quindi di afflato, di desiderio sopperire e supportare questa persona in funzioni in cui magari si sente più meno abilitato, meno facilitato. Ho detto supportare, ma il lapsus mi ha detto sopportare. Questo dimostra che esiste qualcosa che ancora non ho tirato fuori fino in fondo. Vediamo se riuscirò a farlo. Non pensi mai agli altri? Beato chi potrà un giorno permettersi di rispondere no senza ammettere replica. Ci renderemo mai conto di quanto l'altruismo imposto ci rese ipocriti? Operare per il benessere altrui appaga solo se è un fatto celebrato e sottolineato da riconoscimento e plauso. L'altro ci gratificava, ma solo quando ci consentiva di farci belli del nostro magnanimo superamento del muro di indifferenza che, felicemente, ci separava dal suo esistere. Questo pensiero è al passato perché lo formulai come un'ipotesi fantomatica, una rubrichetta che faccio per 24, che è un mensile del Sole 24 Ore, e mi era stato chiesto di dire: ma immagina gli altri non rimpianto se finisse il mondo veramente nel 2012. Se il mondo finisse nel 2012, cosa rimarrebbe a noi di questo senso imposto socialmente ed eticamente necessario di occuparsi degli altri, di essere altruisti? Quando noi siamo altruisti? Siamo altruisti quando il gesto di altruismo ci appaga in due forme. Questa è una mia modestissima opinione, che non aspetto di meglio qualcuno possa confutarla chiamando all'800240024. Io espongo il mio pensiero, però aspetto che qualcuno sia così ardito di portarmi le sue ragioni. Dicevo, io considero l'altruismo una necessità quando risponde, appaga due esigenze. Primo, quello di sapere che noi siamo altruisti nei confronti di un'altra persona, quindi ci adoperiamo nei confronti di un'altra persona, perché sappiamo che l'altra persona ci sarà grato del nostro gesto di altruismo. Il gesto di altruismo è essere gentili, fare un regalo, ricordarsi di una ricorrenza, aiutare in un momento di difficoltà. Ma se si fa con una persona da cui ci aspettiamo qualcosa, qualcosa, sappiamo che è semplicemente un investimento. Non dico che sia sbagliato, è un'ottima azione. Non dobbiamo sentirci in colpa, la nostra natura tende a creare attorno a noi delle condizioni favorevoli di esistenza, di sopravvivenza. Quindi fra le necessità che abbiamo di crearci un habitat felicemente accogliente intorno a noi, essere altruisti, cioè fare piccole operazioni nei confronti di altre persone per cui ci aspettiamo la gratitudine. Quindi io aiuterò la signora ad attraversare la strada, perché se la signora è piacente spero che poi mi inviti a prendere qualcosa con lei. Aiuterò la vecchietta ad attraversare la strada, perché penso e spero che qualcuno mi veda e dica: oh, guarda quel ragazzo ancora all'antica, quanto è buono quel ragazzo, quel signore. Mi alzo nell'autobus per fare sedere lo sciancato o il tremolante o l'anziano o la signora ingravidata, perché spero che il suo sguardo di gratitudine mi appaghi, mi riempa la giornata, mi faccia sentir buono. Ma probabilmente esiste anche un profondo senso di giustizia, di etica, di buona educazione, di principi instillati alla famiglia, per cui lo fai perché realmente ti senti in quel momento, devi essere altruista. Ma questo devi è così pressante, perché è una nostra sovrastruttura sociale, è qualcosa che ci è imposto, o noi siamo veramente radicalmente portati a occuparci degli altri, a volere il bene degli altri. Guardate in quante occasioni nel proprio quotidiano professionale noi avremmo occasione di essere altruisti, ma non lo siamo. Non lo siamo perché sappiamo che quel gesto di altruismo limiterebbe la nostra espansione, la nostra felicità, la nostra capacità di evoluzione professionale. O meglio, siamo altruisti quando questo gesto di altruismo viene inteso da chi è preposto al nostro lavoro come una capacità di socializzare, di risolvere i problemi, di ottimizzare le risorse umane che si hanno attorno e via dicendo. Ma sempre c'è una sorta di ritorno, di profitto. Quindi noi siamo altruisti perché speriamo che l'altruismo ci faccia sentire buoni e belli agli occhi degli altri, quindi siamo gratificati da questo gesto, o perché dall'altruismo ci aspettiamo che ci torni qualcosa. Gli altri siamo noi. Belle parole. Ma gli autori di questa canzone, Bigazzi Tozzi, pare che quando si ruppe il loro sodalizio bisticciarono parecchio su chi dei due l'avesse veramente scritta, dimostrando che... Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Non sono stato mai più... Gli altri siamo noi è un bel principio, è un principio sicuramente... sintomo di civiltà, di civilizzazione, di progresso di pensiero. Pensare che nell'altro si rispecchi noi stessi. Fare una grande operazione che a volte costa degli sforzi nel riconoscere in un nostro simile, simile ma non uguale, simile ma non appartenente al nostro clan, simile ma non appartenente a quelle fattispecie sociali, etniche se vogliamo, ambientali, che lo facciano riconoscere come uno dei nostri. Riconoscere nell'altro un valore quando non è dei nostri, questo è un grande sforzo. Questo io penso che sia un grande sforzo di civiltà. Ma voi cosa pensate? Cosa considerate che sia l'altruismo? Qual è il gesto di altruismo che maggiormente vi ha colpito, vi ha sorpreso, perché compiuto senza soddisfare quelle due fattispecie banali e detestabili che ho elencato io? Quella di essere gratificato da un pubblico e generalizzato applauso per il vostro gesto di bontà, di altruismo, di sapersi occupare degli altri, o di avere l'immediata certezza che da quel gesto di altruismo a noi verrà qualcosa? 800 24 00 24, siate altruisti questa mattina, fate qualche telefonata, perché vi vedo molto latitanti su questo argomento. C'è un altro nella tua vita. Di fronte a questa accusa ci si sarebbe dovuti chissà perché giustificare. Sarebbe bastato rispondere che nessuna esclusiva è possibile, soprattutto quando il riconoscere l'esistenza dell'altro è un imperativo etico così categorico per considerarsi civilizzati e politicamente corretti. Sarebbe stato bello portarsi scritta addosso la lista degli altri che rendevano vivace e interessante la nostra vita. Ma purtroppo c'è sempre stato questo annoso problema di non poter desiderare l'altro o l'altra di altri. 800 24 00 24, se mai ce ne fosse stato bisogno, aggiungo un nuovo rovello, aggiungo un sentiero che nuovamente si biforca nel riconoscimento dell'altro, del valore dell'altro. Quando l'altro non è un valore, quando se noi abbiamo nella vostra vita qualcun altro che occupi inadeguatamente o secondo alcuni schemi sociali, alcune convenzioni, alcuni patti scritti e suggellati, lo spazio che già è occupato da esseri umani che ci sono contigui, l'altro diventa un nemico. Io sono molto altruista, ma non posso essere altruista nel concedere me stesso ad altri che vadano a occupare spazi affettivi che già appartengono di diritto a mariti, fidanzati, mogli, compagni e conviventi. Già questo è un altruismo non concesso. Ma anche nel campo dell'amicizia, anche nel campo delle frequentazioni, l'altruismo molte volte ha delle grosse barriere. Puoi essere altruista, ma non quando il tuo essere altruista limita lo spazio già conquistato da anche altri, da altri rispetto a te. Quindi guardate com'è complicato il rapporto con gli altri, guardate come noi dobbiamo centellinare, dosare questo nostro innato, profondo e spontaneo altruismo, questa nostra indotta necessità di doverci occupare del nostro prossimo. Cinzia, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno, la ringrazio di avermi chiamato. No, la ringrazio io perché questa mattina avevo quasi finito gli argomenti, se non avevo qualcuno con cui parlare il mio altruismo sarebbe miseramente fallito. Sì, allora io sono molto d'accordo con quello che lei dice, che noi dobbiamo in qualche modo limitare, che è limitato il nostro altruismo innato. Io volevo raccontarle un episodio che mi è successo stamattina con mio figlio, che è un bambino di 9 anni. È un bambino buono di natura, come penso siano tanti, tutti i bambini, non saprei dire, ecco, io so di lui. Quindi stamattina... Beh, a 9 anni, a meno che non sia figlio di Rosemary's, del nuovo film, di solito sono buoni. Sono buoni, esatto. Sì, a meno che non siano indemoniati. Allora, volevo così raccontare questo episodio di altruismo innato, che mi è sembrato molto innato, insomma, nel senso che lui frequenta un campo estivo, e dove ha un po' di difficoltà di relazione con gli altri bambini, quando lo prendono in giro, quando lo magari fanno qualche dispetto, insomma. Quindi stamattina lui era molto contrario ad andare, insomma, non voleva andare. È una dura scuola di vita, però è giusto che ci passi, perché è così capisce che ci vada, di che pasta sono fatti gli altri quando non sono i nostri parenti, è giusto che sia esatto. Così. Esatto, e quindi io infatti dicevo no, guarda, tu devi andare. Però gli stia vicino, che è un momento difficile, è il primo impatto con il mondo. Ed ero ben contenta di, come dire, ed ero ferma nel mandarlo. Così come cercavo di spiegargli che un po' il mondo è fatto così e che quindi ci sono queste persone, bisogna stare magari con le persone con cui ci si sente più a proprio agio e in qualche modo contrapporsi un pochino a queste persone che un po' ti prevaricano. E, però insomma era molto dura convincerlo ad andare. Poi gli ho raccontato in realtà un episodio, perché questo gruppo, questo campo solare l'ho organizzato io assieme ad altre mamme, e, perché non ci piace assolutamente che i bambini passino la loro quindi estate nelle scuole. Quindi lei, nella percezione di suo figlio, è la responsabile della galera in cui lo manda? Beh, io cerco di fare in modo che non sia una galera, ecco, che sia il più possibile un ambiente umano, ecco, però in quanto però c'è qualche tale ragazzino, ha le sue difficoltà. Ragazzino un po' strozzetto, cioè, ecco, questo è il problema. Beh, certo, cioè, ci sono bambini che vengono un po' da tutte le parti, ecco. Però proprio ieri ci è stato chiesto da un'amica che lavora, diciamo, nell'assistenza sociale, sì, che c'è un bambino con delle difficoltà, che viene molto emarginato perché vive delle situazioni familiari, cioè, molto molto vabbè, difficili, un problema, insomma. E allora abbiamo deciso che provavamo ad accoglierlo per un pomeriggio in questo gruppo, in questo campo solare che noi stiamo facendo con bambini che invece queste difficoltà, per loro fortuna, non le sperimentano. E allora a me è venuto di raccontare questa storia a mio figlio stamattina. Quando l'ho visto in difficoltà gli ho detto guarda che c'è chi sta peggio, oggi verrà, c'è questo bambino che vive questa situazione e forse oggi verrà al campo. Beh, insomma, questa cosa l'ha fatto proprio svoltare, cioè lui a quel punto lì si è sentito motivato ad andare al campo perché c'era questo bambino che aveva bisogno e che ho capito, che, Cinzia, per posso, cui lui poteva fare qualcosa. Posso fare una sintesi, perché improvvisamente sono arrivati altri ascoltatori. Secondo me, in questo caso, un gesto di altruismo che è un grande segnale di civiltà che lei ha passato a suo figlio, è importante. Esiste un meccanismo, secondo me, in natura che fa sì che anche le persone con dei problemi poi abbiano chi si possa occupare di loro, ma non soltanto per mandato o per missione. Il fatto che ciò aiuti a suo figlio a risolvere anche un suo problema di relazione con gli altri, trovi uno che evidentemente ha più problemi di lui di cui occuparsi, è un grande meccanismo di compensazione. Suo figlio sta meglio, ma anche il bambino con i problemi familiari troverà qualcuno che si occupa di lui, ma con desiderio, con volontà, con piacere, non soltanto perché gliel'ha imposto la mamma, devi farlo perché così bisogna fare, bisogna essere buoni. Maurizio. Pronto? Eccomi. Salve, buongiorno, grazie per la porta. Dunque io volevo dire che in realtà credo che l'altruismo abbia un qualcosa di genetico e quindi provenga dalla necessità che ha l'uomo di perpetuare la specie, come c'è il quindi queste altre cose qui. E tra l'altro questo è l'elemento fondante della morale non cattolica, perché... Però guardi, per proseguire la specie bastano 20 secondi. È un gesto anche abbastanza gratificante, non è così altruistico? Sì, ma poi se non aiuti chi sta male, comunque la specie può finire al di là dei 20 secondi. Sì, ma... No, ma in realtà l'idea è che in realtà questo l'altruismo venga a creare una morale che non è quella cattolica, perché in realtà la Chiesa ha preso il monopolio della moralità, per cui... Dire quello che è giusto. Il messaggio cristiano è stato un messaggio fortemente rivoluzionario in quel tempo, in quel momento, in quel tipo di civiltà in cui si è prodotto. Ne esistevano altri simili ad altre latitudini, in altri luoghi, però è stato abbastanza rivoluzionario considerare l'esistenza di un'altra persona per quello che è, non per il censo, per il grado. Non può essere morale semplicemente il perdono continuo e costante, non può essere morale ciò solo che io faccio per l'uomo che passi attraverso... Ma questo in realtà non lo fa nessuno, guardi, lo fanno soltanto... Tutti lo fanno. Chi è qualcuno non lo fa perché aiuta un'altra persona, un altro umano, ma lo fa, lo aiuta perché lo aiuta nel nome di Dio. Si preoccupa di quello che fanno gli altri, non pensa a fare lei le cose? Ognuno è padrone della propria coscienza, cioè se uno lo fa in maniera ipocrita, lo fa spinto semplicemente da un dettame esteriore, saranno fatti suoi. Io vorrei, quello che mi interessava di capire questa mattina è la percezione individuale che ognuno ha dell'altro e della necessità di occuparsi dell'altro, non semplicemente spinto dalle due fattispecie che elencavo, di avere una sorta di applauso sociale per il fatto di essere buoni e altruisti, o avere un giusto, lecito, ma perché no, tornaconto personale. No, ma in realtà io dico appunto che quello che si fa lo si fa spinti sia da una pulsione che è atavica e dentro di noi, e questa pulsione è quella che crea una morale, diciamo, umana, non una morale... Sì, ma non è che c'è sempre necessario fare distinguo, uno deve seguire, cercare, secondo me, se riesco a dare un senso al mio stare davanti a questo microfono in tutto questo tempo, bisogna riuscire a elaborare un proprio pensiero non necessariamente incasellabile in grandi sistemi che sono giusti, retti o perfettibili, però seguiti da altri. Pensi quello che dice lei, io mi occupo degli altri perché ho un senso profondo di pietà verso gli altri. Molte volte capita, se una persona per la quale si vuol fare veramente qualcosa, e in quel momento magari non ci guarda nessuno, gratifica noi stessi, cioè questo meccanismo di naturale compensazione nelle leggi che regolano i rapporti tra le persone, per cui in quel momento qualche chimica della nostra esistenza fa sì che noi proviamo pietà, aiutiamo quella persona, quindi l'ecosistema umano in quel momento ha uno scatto di necessaria sopravvivenza. Io la vedo così, non necessariamente questo lo faccio risalire a principi assoluti che hanno il loro valore, esistono, non ho nessun problema nel riconoscerli, ma quello che mi piace è capire esattamente quello che accade in ognuno di noi. E chiudo soltanto con Enrico, velocemente. Enrico. Sì, buongiorno Nicoletti. No, ieri, ecco, domenica 28 di giugno ero in una spiaggia in Liguria, sulla riva del mare, sai, dove c'è la battigia, no? Sì. Moglie e i miei figli. E avevo visto questo bambinetto di 4 anni, circa 5, che disperatamente cercava la mamma, cioè diceva mamma, mamma, probabilmente aveva perso la mamma. Ma ci saranno state, dico, 10.000 persone, non so, e nessuno che si alzava. E lei che ha fatto? E io mi sono alzato perché era come se, cioè, ero disperato per lui che era disperato, capito? Mi sono alzato come se qualcuno avesse tirato di dire vai a aiutare questo bimbo, perché non si alzava nessuno. Sì, ma questo dimostra quello che dico io, che in realtà il senso dell'altruismo è una forma di elezione, è una scelta. La massa in realtà non è altruista, capita sulle spiagge di persone che hanno problemi di salute, muoiono addirittura e passano e ripassano sul cadavere coperto con l'asciugamano. In realtà il principio più diffuso è quello dell'indifferenza totale. Poi quando noi riconosciamo questi barlumi che ci fanno piacere, ci gratificano, e oggi racconta una cosa che penso che la renda pieno di soddisfazione, si è occupato di un bambinello sperduto sulla spiaggia, si sente diverso dagli altri, ma sentirsi diversi dagli altri, anche migliore dagli altri, non trovo che sia un esercizio di mero detestabile narcisismo, ma dimostra che esistono percorsi nelle infinite maniere di comportarsi che possono darci dei punti di valore rispetto a quello che è il comportamento di massa. Melog 2.0. Stiamo cercando di sondare, analizzare, senza supporto etico, senza riferimento morale, senza nessuno ci dica come, dove, quando, in che maniera dobbiamo comportarci, il nostro atteggiamento nei confronti degli altri. Chi sono gli altri? Dobbiamo riconoscere gli altri, occupati degli altri, devi accorgerti che anche gli altri esistono. Sì, tutte belle cose, ma stiamo analizzando e vedendo che poi nelle esperienze individuali esistono dei barlumi, oppure dei lampi fulminanti di altruismo, delle azioni gratificanti o dei meccanismi di compensazione a volte impercettibili, sotterranei, per cui l'altruismo esiste, cioè è una delle modalità che abbiamo di relazionarci con gli altri, ma è vero altruismo quando non risponde mai degli imperativi categorici, devi occuparti degli altri, devi avere commozione per un'infinità di persone che soffrono, che stanno male o che stanno vicino a te, delle quali tu non ti accorgi, devi vedere te stesso negli occhi del mendicante, ma è vero, ma fino a un certo punto, non può essere sempre così, non può essere in un momento in cui poi siamo circondati, come abbiamo, vi servirò in questo cinico e perfido, da un immenso talk show, un immenso reality show di format di mendicanti. Io ormai li segno su un taccuino, i mendicanti che vedo per strada, per vedere le loro fantastiche maniere di porsi attraverso degli stereotipi che dovrebbero impietosire. Ho già notato che quelli che si stiano con il cappotto a piedi scalzi nella pioggia, nella tormenta, adesso hanno sostituito il cappotto con dei sacchi della spazzatura che indossano, sempre scalzi, nudi sotto e macilenti, e sempre uguali, sempre serializzati, sempre agli stessi incroci di semaforo, sempre in ogni città d'Italia. È un po' difficile essere altruisti di fronte al format del mendicante, che dovrebbe essere l'elemento chiave di ogni altruismo e in ogni pietà. Non a caso i telegiornali per anni, sotto Natale ci fanno vedere sempre la cena dei barboni, le damine che portano da mangiare ai barboni. Ecco, io vengo da una città perversa e austera e fantastica allo stesso tempo di provincia, in cui mi ricordo ancora le cioccolate dei poveri. Avevo delle amiche con delle zie ricche che appartenevano a pie associazioni istituzionalmente riconosciute, che una volta o due all'anno si occupavano dei mendicanti della città, quindi aprivano i loro palazzi e davano la cioccolata e i biscottini ai mendicanti, e questo le faceva sentire tanto buone. Quella era una sorta di sociale rappresentazione della bontà. E mi fa venire in mente a me questa idea della cioccolata dei poveri un fantastico film di Louis Buñuel, che è un maestro assoluto, surrealista puro, che è Viridiana. Viridiana è una fanciulla novizia che vorrebbe fare la suora, sta per prendere i voti, quando la madre superiore la manda a visitare un suo zio, e lo zio naturalmente tenta di ingropparsela in tutte le maniere, perché gli ricorda la moglie morta, arriva a narcotizzarla e farle credere di averla violentata durante la notte, ma lei riesce a fuggire a questa trappola, e quindi si rifugia nella sua casa di campagna, adesso non ricordo bene, una tenuta, e decide di fare un gesto profondo di altruismo. Raduna tutti i disgraziati del circondario, storpi, ciechi, barboni, tutto l'esempio più classico dei freaks possibili, li porta nel suo palazzo e dice: io vi gratificherò, mi occuperò di voi. però anche lì ci sono qualche problema, che nel frattempo era venuto il cugino, il figlio di quello zio, che anche il cugino tentava l'ingroppamento della nipote, della cuginetta. Quindi lei aveva dei problemi, si allontana un attimo e lascia non presidiata la villa con tutti questi poveretti che erano tutti buoni, tranquilli. Appena le esce accade qualcosa di fantastico. Loro si impossessano della villa, si impossessano dei beni di Viridiana e cominciano una sorta di rituale orgiastico. Le tirano fuori le tovaglie di fine ricamo, le prendono il cibo, le sfrugano nei cassetti e cominciano qualcosa fra la festa e l'orgia, accompagnata da musica sacra, dal Messia di Handel, mentre loro gozzovigliano sulle spoglie della povera Viridiana. Questi sono i nostri nuovi compagni. Dio vi aiuti. Avete mangiato? Era buono? Senza offesa per la nostra benefattrice, tanto buona con noi, mi permetto di far osservare che questi fagioli sapevano di forte. Che vuol dire? Accisi, idiota. Non fateci caso, signorina, sono ignoranti. Buon viaggio, signorina. Grazie. Signor Dekel, rifugio, venite a vedere. Ci sono stata con la signorina, dentro ci sono cose preziose. Solo a guardare, eh? Guarda che tovaglia ricamata. Vieni, stendiamola. Deve costare un occhio. Quando tornerà la povera Viridiana, tenteranno di stuprarla anche i barboni, anche il cieco, anche lo storpio. Succederà una sorta di gran guignol tra sangue, fino a che anche lei capirà che questo suo bagno di altruismo però le sarà servito. Si scioglierà i capelli e deciderà, brucerà la corona di spine che si portava sempre dietro come provvidenziale cilicio, e capirà che in fondo la vita è fatta di alti e bassi, di chiari e di scuri, che non esistono missioni totalizzanti, gratificanti e catartiche, a meno che uno non sia un santo. Irene, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti. Volevo appunto dirle questo, che secondo me molte volte non si pensa al fatto che il famigerato altro in realtà ha un potere enorme di scegliersi la persona a cui chiederà l'aiuto, e questo è un potere grandissimo, perché solitamente sceglie la persona che sa, per cui ci arriverà perfettamente in orario e sa che potrà ricevere quella cosa. Guardi, infatti, mi do da fare sin da quando mi sveglio la mattina per essere l'altro di qualcun altro. Questo mi sembra che sia umano. Sì, sì, è vero. Però questo sottintende un concetto molto più importante, secondo me, è che comunque l'altro in qualche modo è uno specchio per noi. Io lo parlo anche per esperienza, nel senso che sono un educatore da diversi anni. La prima cosa da fare è scontrarsi con questi specchi molto forti, per cui comunque molto spesso tu decidi di stare più dietro a un'utenza, che in questo caso è l'altro bisognoso, perché in qualche modo ci riconosce qualcosa di te, e a quel punto, diciamo, tutto il tuo valore e potere educativo svanisce, perché in qualche modo è come se tu non riuscissi ad aiutare te stesso, ecco. Lei ha perfettamente ragione, perché guardi quanto sono miseramente falliti tutti i tentativi ideologici, pubblici, politici, catartico-spirituali, di instillare il rispetto dell'altro, la sopportazione dell'altro, la necessità di capire che esiste anche l'altro. Anche perché uno può parlare di altruismo quando è prova vivente, quando è esperienza tangibile di altruismo. È facile dire devi sopportare anche, che ne so, che ci siano persone che tu non gradisci, che ti facciano casino sotto casa. Sì, è facile dirlo quando uno vive in una bella casa isolata dal mondo, quando uno ha un pub sotto casa che sente tutte le notti gente che urla, strilla, si prende a bicchierate. È un po' difficile nascondersi dietro il principio. Diciamo che è una conquista quotidiana, si fa giorno dopo giorno, capire qual è realmente il nostro rapporto con gli altri è qualcosa che si acquisisce con l'età matura, secondo me. Però lei ha detto una cosa molto giusta, iniziare mamma mia, sto facendo una trasmissione che sembra veramente fatta per i Boy Scout, però questa mattina va così. Iniziare comunque a instillare, se possibile, nei ragazzi il fatto che è un'esperienza e un bel training occuparsi anche degli altri non è proprio male. Brigida. Ciao Nicoletti, guarda, io volevo raccontare la mia esperienza che dimostra quello che tu dicevi in apertura. Ho ospitato un bambino dalla Bielorussia. Sì, tante amiche che lo fanno. Sì, è piacevole perché insomma hanno bisogno del nostro sole, del nostro mare, un po' di serenità. Questo bambino era molto molto introverso, molto chiuso, non parlava la lingua, figurati, quindi era proprio chiuso in se stesso, quasi autistico. Nel momento in cui un giorno gli ho comprato una bellissima macchinina, gliel'ho data, lui gli si sono solo illuminati gli occhi, non ha detto niente, non ha alzato quasi neanche la testa, è rimasto a guardare questa macchina. Beh, poveraccio, pensi da che situazione di orfanatrofio verrà suo figlio, questo bambino? Conclusione, lì ho sentito, cioè quello che ho sentito io è stata una lezione incredibile che dimostra quello che dicevi tu. Cioè io mi aspettavo almeno uno sguardo e un grazie, una parola, un cenno di felicità nei miei confronti per, come dire, per nutrirmi, per restituirmi. Vabbè, quel qualcosa. Prendersi un bambino in affido per un mesetto non è come andarsi a fare un massaggio o un trattamento di bellezza, non è esattamente, no, la stessa cosa. È bello raccontarlo, tutte le amiche dicono come sei brava, come fai, no, dovresti essere come te. È dura. E ti mette davanti allo specchio perché sì, ti dimostra che a volte noi facciamo queste cose. Poi c'è il grosso vantaggio che il bambino dopo un mese se lo riprendono e è finito l'impegno. Sì, purtroppo, perché poi non sai più che fine fa. Comunque, certo. Lo ridanno aveva un'altra persona che se lo riprende. No, questo aveva una sua famiglia, però insomma vivono in condizioni molto disagiate. Adesso dirò una bestialità e mi prenderò le ire. Fa un po' parte dei lenimenti per lo spirito e per il corpo che noi occidentali usiamo per sentirci buoni e civili, anche prendersi il bambino per un mese, perché questo che mi dice lei è un quadro che riconosco in tantissime persone, amiche, conoscenti, via dicendo. Si prendono questo bambino, hanno questa esperienza intensa, lo usano quasi come fosse la palestra della loro coscienza, del loro sentimento, loro capacità di altruismo. Poi il bambino viene rimpacchettato, rimandato nel suo orfanatrofio, pronto a essere dato a un'altra persona. È un palliativo, un sostitutivo di quello che è il cammino faticoso, doloroso, a volte anche maledetto, l'allevamento di un figlio. Si renda conto che fa parte, è come il percorso che si fa in quei bellissimi centri benessere, capito? È come camminare sui sassolini caldi, farsi mettere l'olio addosso e poi si torna rinfrancati. Ecco, tenersi il bambino per un mesetto e toccare con dita quella che è l'abiezione, il dolore e la sofferenza ci fa sentire tutti più fortunati, più gratificati. Melog 2.0. Ragazzi, io sabato mi battezzo. Che? Ma che, non mi dite niente? In fondo mi sono sempre sentito diverso dagli altri. Tutti i bambini avevano l'angelo custode e io no. Ho incontrato un angelo. Oh. Un angelo maschio o femmina? Gli angeli non hanno sesso. Insomma, c'ha le poppe o non c'ha le poppe? Nell'aspetto fisico, umano, sì, ha diciamo il seno, ma non è questo il rapporto. Noemi è una santa creatura, piena di fede, di devozione. Sorella d'un pio sacerdote, mi ha preso per la mano e mi ha fatto uscire dal tunnel. Oh ragazzi, ma che gli date retta? Questo si è innamorato di una baciapile e per conquistarla ora bacia le pile anche lui. Ti si conosce. Vai, vai, melandrone. Ma facci il piacere di non farti più vedere finché non l'avrai trombata, eh? E quando sarai rientrato nel tunnel? Ragazzi, ragazzi, io non ho che voi al mondo. Chi mi vuol fare da padrino al battesimo? Io! No, l'ho detto io! Io ho servito messa a 4 anni! E io c'ho il viso! Io giochiamo a sorte! Ma alla chi? Va bene, si va all'altra palla! Dai! Va bene, alla chi? Non vogliatemene, ma non potevo fare a meno di citare il Melandri in Amici miei parte seconda, Gastone Moschin, che si innamora veramente della baciapile, bella, polposa, sembrava quasi una sorta di atto innaturale che una femmina così programmata, fatta e costruita, almeno dal punto di vista estetico, per il piacere, si dovesse occupare di lavare i piedi ai barboni, fare operazioni pie e via dicendo. E questo atto di irrequietezza della natura voleva compensarlo il Melandri. E lui si veste da diacono, si mette la veste bianca, va anche lui a lavare i piedi ai mendicanti, ma in realtà gli amici avevano capito cosa c'era dietro questa sua improvvisa botta di altruismo. 800 24 0024, parliamo di altruismo. Vi cito qualcuno che ha risposto alla mia domanda su Facebook: è giusto, bello essere altruisti? È giusto e comunque concordo, non si decide di esserlo, o lo si è o non lo si è. Il problema di fondo è che nella maggior parte dei casi gli altri non sono altruisti con te, come se noi non fossimo anche l'altro per qualcun altro. L'altruista vero, dice Barbara, non sa di esserlo. Quando qualcuno glielo fa notare, se ne dimentica immediatamente. Questo è vero. Gli atti d'altruismo reali, fantastici, sono quelli che ti fanno notare gli altri, non te ne eri nemmeno accorto. Vediamo un po', avanti. Chi è veramente altruista risolve in incognito i problemi degli altri, parenti o amici, non ne fa senza pensarci come, e non lo fa senza pensarci come respirare. Monica dice: io sono perplessa, cosa vuol dire essere altruisti? A me tutto questo odore di santità imbarazza molto. Cosa c'entra la santità? Essere altruisti non è un gesto di santità, è un gesto concreto, reale, di riequilibrio di alcuni meccanismi di relazione. Maria dice: l'altro giorno un'amica mia parlava con me di quello che lei chiama proprio così, altruismo sessuale, per la serie. Un bicchiere d'acqua come un atto di amore non si nega a nessuno, mica male. Per il resto, se l'altruismo viene pubblicizzato, quello di cui si parla adesso è, come dice Monica, imbarazzante. Sentiamo Nicola. Nicola, buongiorno. Sì, salve, buongiorno Nicoletti. Volevo un po' tornare a quanto si diceva prima, l'altruismo che poteva esserci tra parenti, genitori, figli o anche un po' parenti più alla larga. Cioè il legame genetico in sé implica un naturale altruismo? Io penso di no, però vediamo cosa ne dice lei. No, avendo fatto un po' di studi di genetica, essendo un biologo e... Ma è un genetista lei? Diciamo che mi sono occupato un po' di genetica. Vabbè, la scuola radiolettera di genetica, andiamo avanti. Sì, uno dei due scopritori del DNA, Watson O'Crick, ha scritto un libro che si chiama Il gene egoista, e praticamente si sottolinea proprio che il gene ha questa tendenza ad occuparsi di se stesso praticamente, per cui quello che si fa ad un figlio, già che c'ha una parte degli geni identici o comunque un po' più alla larga, ha comunque una porzione di geni uguali, quindi questo spinge in questa direzione praticamente. Ci occupiamo quindi, della nostra carne, quindi è normale. Ma questo non solo per l'uomo, attenzione, questo anche per altri animali. Le famose cure parentali che sono presenti anche in altri animali un po' inferiori, si basano sullo stesso principio praticamente. Vabbè, questo lo abbiamo definito. Infatti, man mano che acquisisce autonomia un essere umano, si allentano questi vincoli, poi diventa una sorta di patto di assistenza, e ti voglio bene, mi occupo di te, perché quando io sarò vecchio e starò sulla sedia a rotelle, avrò bisogno di chi mi infila il catetere, spero che tu mi renderai conto di quello che ho fatto per te, che di solito è una pia illusione. Angelo, buongiorno. Ciao Nicola, buongiorno a te, piacere di chiamarti per la prima volta, allora. Anche se ti ascolto spesso. Senti, allora velocemente, io non so se poi è centrale sull'argomento, però... Se è periferico è ancora meglio, guarda. Come? Se è periferico è ancora meglio. Dai, allora diciamo questo, io penso due cose. Allora, la prima che c'è questo altruismo, comunque anche se insomma in maniera molto marginale, ma però è presente fino a che tu sei bambino, no? Fino a che non c'è, come dire, l'adulto che comincia a mettere poi dentro tutta una serie di così. Ma tu sei altruista? Ma io sono altruista, no, per niente, però... Ecco, dimmi una volta che ti sei riconosciuto sorpreso di essere stato altruista. Beh, ti terrei un'ora... Ma dimmene una. No, nessuna. No, preferisco invece andare avanti sull'altra parte del pensiero. Ma perché sviate sempre da parlare di voi stessi? Scusate, qual è il problema? Dimmi una volta in cui ti sei rimasto sorpreso di essere altruista. Ma infatti penso di risponderti in questo modo, guarda, io personalmente penso e credo di essere altruista, sai quando? Solo quando vedo effettivamente... la persona che ha un reale bisogno. Allora, cioè io penso questo, che questo meccanismo poi di altruismo in ognuno di noi, chi più chi meno, scatta quando percepisci effettivamente dall'altra parte il tuo simile che ha davvero un reale problema. Non sono d'accordo, perché siamo circondati di gente con reali problemi e non possiamo avere afflati per tutti. Sentiamo Rosanna. Sì. Rosanna. Buongiorno. Niente, io volevo soltanto parlare di me invece. Dunque, diciamo in genere mi fa schifo, proprio l'ho detta sì. Chiaramente, comportarmi in modo egoista. Cioè, a me sembra che diciamo che è naturale, che dovrebbe essere naturale comportarsi in un certo modo nei confronti del prossimo. Naturale, poi diciamo comunque, viene come viene, lei come viene? Dico, sì, come viene. Lei sente di favorire gli altri. Va bene, è una sorta di istinto profondo, di fluidificatrice dell'angoscia umana. Sì, in effetti. E in cambio cosa ne ha lei di questo? Niente, assolutamente niente. Quindi lei però non mi importa. Ha delle virtù eroiche? No, io appunto no, io certe volte mi sono chiesta, dico, ma perché? Ma questo perché lei perché? La fa sentire bene, la fa sentire appagata? No, è normale, per me è normale. Vabbè, lei è normalmente altruista, ma nell'infinità e varietà di condizioni umane abbiamo in conclusione, parlando di altruismo, una persona che è glaciamente, freddamente altruista, di cui non ha nemmeno il beneficio della soddisfazione o gratificazione dell'altruista, una macchina programmata per il bene del prossimo, quindi fortunato che ha a che fare con lei. Ringrazio Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111.